Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Tempi duri per chi effettua trasporti internazionali. Fra la reintroduzione dei controlli alle frontiere in alcuni paesi dell'area Schengen, le questioni di sicurezza da affrontare in zone particolarmente a rischio e nuove problematiche da gestire con la Russia, infatti, diventa sempre più complesso svolgere questo tipo di attività. I trasporti internazionali si basano su regole ben precise, frutto di intese bilaterali e con paesi terzi, e possono risentire quindi degli equilibri geopolitici del momento. Dal 1 gennaio il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato la fine dell'accordo con l'Ucraina sulla zona di libero scambio commerciale, a causa della crisi politica e militare ancora in atto fra i due paesi. Ciò comporta che ora i trasportatori in transito dall'Ucraina al Kazakistan dovranno passare per la Russia attraverso la Bielorussia, applicando specifici dispositivi di identificazione sugli alloggiamenti merci e ricevendo all'ingresso in Bielorussia dei ticket da consegnare poi all'uscita dal territorio russo. Ma quali sono le ripercussioni per le imprese e l'economia italiana? I dati diffusi dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero hanno registrato solo nel primo trimestre dello scorso anno un calo del 23,6% delle importazioni russe di prodotti made in Italy. Si tratta però di dati parziali che non tengono conto delle molte ripercussioni indirette sia sul fronte produttivo sia su quello distributivo. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ebbene, come avete ascoltato dalla scheda iniziale, viaggiare in centro Europa, nonostante le recenti difficoltà legate alla sospensione in alcuni paesi del Trattato di Schengen, è relativamente facile, così come è facile muovere le merci da un paese all'altro. Ben più difficile e complesso può rivelarsi spostare le merci da e per paesi dell'Asia, dell'Africa o semplicemente in paesi in cui siano in corso dei conflitti. Proprio pochi giorni fa, ad esempio, la Russia di Putin ha impedito l'accesso ai veicoli provenienti dall'Ucraina e diretti in Kazakistan, bloccando di fatto decine di mezzi alle frontiere. Ma questa è solo l'ultima difficoltà in ordine di tempo che si frappone tra chi deve inviare o ricevere le merci in paesi che non siano del centro Europa. Difficoltà che di solito deve gestire l'impresa di autotrasporto e di logistica, che quindi, oltre a dover fare delle valutazioni di tipo tecnico, deve fare anche altre legate, diciamo, alla geopolitica dei trasporti. Ne parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, l'ingegner Massimo Costa, responsabile per i trasporti internazionali di merci extra UE del Ministero dei Trasporti. Allora, dottor Costa, che cosa è successo in Russia in queste ore? Innanzitutto, quello che è successo in Russia non è il primo caso. Sostanzialmente paesi extraeuropei modificano l'accesso, il transito attraverso i loro territori senza l'adeguato preavviso. Quindi è un problema di comunicazione. La scorsa estate l'Ucraina sospese il traffico diurno di veicoli pesanti perché le ore diurne avevano dei problemi di deformazione del manto stradale. Quindi la Russia questa volta cosa ha fatto? Dal 1 gennaio 2016 c'è un decreto a firma di Putin, che però non abbiamo ancora ricevuto per via ufficiale, che non consente il transito dall'Ucraina verso il Kazakistan, ma obbligherebbe i veicoli anche italiani, anche dell'Unione Europea, a bypassare l'Ucraina entrando in Russia dalla Bielorussia. Il problema è grosso non soltanto perché c'è da aggirare uno Stato, ma perché va preventivato un viaggio. Quindi la cosa fondamentale è quella di poter riuscire a disporre di informazioni efficaci, tempestive. E per questo voi vi affidate molto anche alle imprese di autotrasporto e logistica, quelle ovviamente che si occupano di trasporti internazionali. E allora vi presento il nostro secondo ospite, che è Darius Toidi della Parsimpex, che è un'azienda italiana specializzata appunto in questa tipologia di trasporti. Toidi, voi siete quindi un po' le sentinelle sul territorio del Ministero a cui dovreste comunicare ogni genere di difficoltà. Quali sono in questo momento soprattutto le aree più critiche dove siete impegnati? Allora, in questo momento faccio riferimento sempre a quello che ha detto il dottor Costa, è il problema di comunicazione. Noi abbiamo riscontrato diverse difficoltà anche in Turchia per via del allarme aviario che l'avevano, cioè noi veniamo a sapere sempre dopo, una volta che camion partito, una volta che il routing certo, è stato quindi deciso, quando il viaggio è stato organizzato, come diceva l'ingegnere Costa. È stato organizzato, pianificato, quantificato e noi non possiamo più cambiare routing nel corso di opera, camion parte, deve fare determinate routing. Arriviamo a una frontiera e salta fuori che ieri è stato deciso una cosa che noi non siamo al corrente e poi dobbiamo riorganizzare tutto e questo vuol dire costi, vuol dire anche questioni di organizzative e poi anche studi di fattibilità di cambiare tutto in corso d'opera. Noi quello che chiediamo è di avere informazioni con un certo preavviso per poter organizzarci, perché altrimenti poi andremo certo. a riscontrarci delle difficoltà non indifferenti. Ecco, ma nel caso di specie, quello che è successo qualche giorno fa in Russia, che cosa succede? Vi ritrovate con questi veicoli che sono bloccati ad una frontiera e in qualche modo dovete riorganizzare tutto in tempi brevissimi? Certo, lei pensa magari c'è qualche veicolo con merce deperibile, camion frigo a temperatura controllata che deve lì adesso cambiare il routing e che ha già previsto un viaggio per determinati giorni di viaggio, per dire un camion frigo può stare 40 giorni autonomo senza dover fare un servizio al motore del frigo, oppure un cliente che dall'altra parte sta aspettando qualcosa per un linea di per una fabbrica che si ritrova ovviamente bloccato e a farne a meno. Ingegner Costa, tra l'altro in Italia c'è proprio tutta una disciplina che in qualche modo regolamenta i trasporti internazionali e proprio di recente è intervenuto anche un decreto che ha in qualche modo sistemato alcune cose. Esiste una disciplina che riguarda i trasporti internazionali in regime bilaterale, cioè trasporti andate e ritorno dall'Italia verso paesi extraeuropei. Abbiamo perfezionato la normativa attuale con due innovazioni che partono dal 2016. Abbiamo ampliato l'opportunità di trasportare merci fuori dall'Unione Europea anche per veicoli medio-piccoli, per capirci, per massa complessiva fra 3,5 e 6 tonnellate, che erano esclusi fino all'anno scorso. Questo perché gli operatori degli altri paesi potevano fare questi trasporti. Quindi abbiamo cercato di cogliere una potenzialità del mercato. Sostanzialmente gli operatori dell'Italia centrale e meridionale con destinazione paesi balcanici oltre la sponda orientale dell'Adriatico. Altra innovazione riteniamo importante è che per accedere alle licenze cosiddette multilaterali, più flessibili, quelle uh-huh. Con le quali si opera in ambito OCSE, CEMT, per capirci, ora si potrà direttamente fare domanda al Ministero senza il tirocinio, diciamo, il tirocinio virtuale di un anno che era previsto fino al 2015, per cui l'impresa che vuole partire e fare un piano industriale più coraggioso può direttamente fare domanda se vuole operare già da ora in questo regime multilaterale, quindi trasporti più flessibili. Tra l'altro noi prima parlavamo delle imprese come sentinelle del territorio, proprio la Parsimpex ha per esempio denunciato un problema che in questo momento ci sarebbe in Iran. Sappiamo che c'è una disparità talvolta di trattamento pedaggi, per capirci, fra un veicolo italiano e un veicolo che viene da altri paesi. Conosciamo un problema sollevato dal signor Toidi e stiamo operando per chiarire qual è la situazione. Vogliamo avere chiarezza e sono molto importanti per noi le imprese perché sono il nostro fronte sul territorio. Soprattutto laddove mancano comunicazioni ufficiali come quelle di cui parlavamo prima che arrivano dalla Russia. Lei prima ha parlato di contatti bilaterali tra paesi, cioè in pratica come funziona? Le delegazioni di due paesi si accordano su un certo quantitativo di viaggi che possono essere effettuati? Noi abbiamo degli accordi bilaterali, siamo arrivati a circa 25 accordi, un numero consistente, sono accordi che regolano la modalità di trasporto delle merci, contingentano allo stato attuale il numero di viaggi, la tipologia di veicoli, in particolare con riguardo all'impatto ambientale.